fatto l'M93, è riuscito a metterlo, però non amplifica, amplifica poco. Boh, non lo so, questo non te lo so dire. Io poco fa lo sentivo, era tutto gracchiante. Prima a vedere l'impedenza pure del microfono, molte volte conta parecchio l'impedenza, se è troppo alta magari distorce, se è troppo bassa magari no, non riesce a amplificare. Ok, vediamo un pochettino. Luca, ci sei ancora? Sono qua, dimmi. No, no, sto solo dicendo se ce n'è ancora. Poi c'era Giuseppe, Riccardino e Franco California, rientra. Riccardino, mi senti? Benissimo, ti sento. Ma Massimiliano che fine ha fatto? Che stava contattando una persona per un microfono. Massimiliano è qua, Rix. Allora ti assente la aspetta, forse avete parlato in due, avanti l'altro, chi era? Siamo in tre, riusciamo a sovramodularci pure. Ok, io mi allontano 5 minuti e arrivo subito, dai, continuate voi. Cosa volevo dire? Ci sei Gianni? Luca? Via Giuseppe, dimmi tutto. Spostati un attimo di canale che ti voglio far sentire un microfono. Vai al 20, va. Ok. Natali, ci sei? Massimiliano, sono io. Natalia, ero un po' semmai che stavo contattando a Ciro. Ha venduto quello, ha venduto il Turner più 3 e l'MB più 5. Non l'ha qui. È attivo, non c'è via, li ha venduti tutti e tre. Ho controllato su subito se c'è qualcosa. Capito. Prego, si è controllato su subito se c'è qualcosa. Non ho controllato. Ma anche nuovo me lo potrei prendere, ma dove lo trovo? È quello. Fusaro, vero? Fusaro va anche se MB più 4. Già mi se ne è rotto uno e Fabrizio me lo deve controllare per vedere se riesce a aggiustarlo. Perché non sa cosa c'ha quel microfono. Per esempio Pomponio è riuscito a piazzarlo quell'M93, però non amplifica un tubo. Però io l'ho sentito la radio, mi ha fatto sentire sia il microfono normale sia l'M93, è tutta la saguba, non è questa grande amplificazione ma esce molto bene. Adesso vediamo quando vado a ritirarmelo, perché c'ho la macchina lontana e mi fa male la gamba camminare fin lì a prendere la macchina, se no sarei andato a pigliarmelo. Io l'ho sentito col microfono, quello piccolino, usciamo ben male. L'M93 c'è bene, non è questa grandissima amplificazione, ma il problema non è il microfono, è che il microfono già sta amplificando, è che la radio che non si riesce a aprire un po' di LC, ecco perché è tutto il problema, capito, Attali? Però è tutta la saguba. Non viene di Dreamer per la LC. Non ci sono schemi di questo apparecchio qui, un casotto. Non sai cosa ci vorrebbe lì, come tipo di microfono, anche ma quanti si chiama lì su amplificato a palmo? Ma ti suoni dove va lei, come ti chiama? L'M300. Sì, bravo, bravo, lui è l'M300, sì. Gannati, come sto uscendo con questa radio? Ma io sei Giuseppe. Come? So che sei bassino. Giuseppe, un po' basso del radio, sì, però è chiaro, eh? Sì, no. Sì, cosa? No, è fischiato. Sì, questo qua è appena appena. E così, Massimiliano, buongiorno. Ciao Giuseppe, buongiorno anche a te. Ascolta, dimmi una cosa, il Top Gun inserito hai? No, non sono con le C9, sono con le 48. È un po' così la radio, devo essere sincero. È chiara, sì, ma non è questa grande cosa. Questo è quello che uso nel camper. È giusto per farlo girare un pochettino. Ascolta, per curiosità mia, ma c'hai anche il microfono su originale? Delle 48 no, del 48 no, e questo che sto usando è un prossimo. Ah, quindi tu usi questa radio con questo microfono. Rimane un po', come ti posso dire, un po' tipo barattolosa. Aspetta un secondo che provo, te lo faccio sentire con un altro microfono. Ok, no. Va bene. Capito Natali, l'M300 forse c'è qualcosa, mi sembra, forse c'ha qualcosa Gigi. Però prima provati quello là, prima prova questo M95, con la tua voce, perché quella di Pompoli è molto diversa, può essere che tu lo porti meglio, capito? Prima di spendere, di fare. Franco, lo proviamo, cosa vuoi che ti dica? Natalino, attenzione, se coppi qualche cuocomane. Quel Giuseppe Tornado, quel cuocomane. Ma va, sei tu. E beh, Massimiliano, questa va meglio? Guarda, se questa qui è la stessa radio di prima, sembri totalmente con un'altra radio. KK. Se ti dico con quale microfono... Guarda, gli ho messo il microfono del Galaxy. Ma questo è bello, esce bene, esce meglio dell'altro, Cazzo, dire che quello là è anche amplificato, mannaggia. Ma non sai cosa potresti fare, provare a girare le connessioni e provarlo sulla Sanova. Questo qua? Quel DM1000, cos'è un DM1000 quello? Quello che stavo usando poco fa, sì, un DM1000. Però su questa radio qua non è che vada tanto bene, questo è molto molto superiore. Allora mi sa che l'unica cosa che devo fare è cambiargli il cavo, perché nel Proxel ho il cavo quello morbido e nel camper è di lusso. Ma questo c'è bene, questa radio con questo microfono e la tua voce in verticale. KK. Va bene, ok. C'era Luca, che Luca ci sei? Vai Natalino, forse siamo io e tu e Natalino, boh. Andà bene, ok. Sì, è decisamente molto molto meglio questa, Giuseppe. E con questa abbiamo migliorato ancora. Dico la Cagubba. Questo è lui. Ma tu non ci vuoi riprovare a farla rimettere a posto questa, no? No, se riesco, guarda, a trovare una radio, una buona radio, aggiungere qualcosina, questo magari lo posso dare a qualcuno che gli serve per pezzi, perché questo funziona tutto, sai cosa vuol dire tutto? Non ha un graffio, è lucido come che sia appena uscito dal negozio. Non so, però già lo sappiamo quello che c'è, purtroppo tanta gente queste cose le guarda, capito? Bisogna vedere qualcuno che ne tratti, ma ne tratti un bel. Eh sì. Vabbè, ma io secondo me te l'ho detto che tipo di radio, secondo me ti vai ghiso e boom, hai capito, vai tutto. E infatti, una e boh, avrei eliminato un po' di cosa da qua, perché ti ripeto, per come mi sono sistemato adesso, mettere una radio, perché ho mensole da tutte le parti. E ho fatto lo studio a mano mia e l'angolo qua dei baracchini è di lusso. Infatti, ti metti una cosa del genere, hai capito? Lì l'alimentatore, il microfono si andene, è trubagliettato. Quando non ne voglio stare qua, stai là, capisci a me? È positivo, certo, hai perfettamente ragione Massimiliano. Qualcuno che mi chiama basso, non ho capito chi è. Ah, buio, io non lo sento la tele. Io sono impegnato al computer, chiedilo a qualche altro. Io non lo sento, tu lo senti Giuseppe? No, negativo, io sono sempre con l'antenna interna e non sento. Comunque, poi l'altro giorno vi stavo ascoltando per quanto riguarda quel lavoro che vuoi fare. Lascia perdere tutti i cazzati che dicono, buono, rugavo, dovresti mettere, col gancetto lo tiri fuori e va bene quel lavoro che dovevi fare. Sì, ma mi hanno un po', devo essere sincero, sono un po' così, perché prima ero un po' più imporrato, adesso proprio non lo so, probabile che mi riprenda un pochino, perché ne ho sentito tante che me ne è passata la gana. Vabbè, ma scusa, quando piove i cavi non sono sul tetto, cosa giamba? Ma infatti è quello che ho detto io, addirittura sul tetto cazzo ristagna l'acqua. Appunto per quello che sto dicendo, ma poi quell'altra persona là, no? Cazzo c'ha un malloppo dentro quei cosi, quindi lascia per lì. Mettilo, se lo devi mettere tranquillo, non succede proprio niente. Infatti, perché così riesco a sistemare bene la cosa. Poi adesso a tempo buono voglio salire sul tetto perché ho un cavo d'antenna che parte sul tetto e deve essere incanalato da qualche parte e mi sbuca in soggiorno, c'è una scatola in soggiorno, Massimiliano. Niente di strano che se io riesco a tirare via quel cavo d'antenna lo faccio entrare da lì, perché sopra il tetto a quanto pare per ogni appartamento c'è la sua canaletta. Massimiliano, sì? Dille come ce li ho io i cavi. Io ho detto quella persona lì in ammaloppo era giudito, eppure non succede niente. Ma tu ascolta Giuseppe, ma tu il cavo l'hai già acquistato o lo devi acquistare? L'ho già acquistato, ne ho preso 30 metri. Ma hai preso il 58 però. Cappa. Allora tu adesso fai una prova prima magari, se quel cavo della TV che non ti serve, tu lo leghi il 58 in quel cavo, va sul tetto, lo sfili e ti viene dentro anche il 58, se passa, perché giustamente chissà quante curve farà e se riesci poi, capito? Certo, ma per quello dovrebbe passare, perché mi sa che il 58 è leggermente più fino del cavo d'antenna. Allora hai risolto il problema, ascolta, e non fai niente fuori, né dentro i tubi, né dentro nulla, tiri quello e via, da dentro casa tu cosa fai? Prendi, colleghi il 58 a quello di antenna, sali sul tetto, fai sfilando uno e entrando l'altro. Certo, te l'ho detto, devo salire per fare una ricognizione, adesso appena ci possiamo muovere un attimino e le cose si calmano un po', vediamo un po', si sale, si controlla, perché se siamo in due è ancora meglio, uno su, uno da qua che l'accompagna, gli dà un coso, magari gli si mette appena di sapone liquido anche per aiutarlo. Beh, giustamente sì, si mette un po' di sapone, un po' di quella vasellina anche, va bene, e l'aiuta a sfilare, no? Bisogna essere in due, anche in tre, capito? Per dare un colpo di mano, per me problemi già non ce ne sono. Sì, e poi si vede un po', se non va bene il lavoro lo puoi fare tranquillamente come stavi dicendo tu, un forellino da 10, tag, gancettino, sfili fuori il coso e trovi entrambi dei bagli biati, va bene lo stesso, capito? Va bene lo stesso, ti ripeto, hai visto, già lo sai di che stiamo parlando, no, ma lo puoi sentire, e non succede nulla. Oh Claudio, ma qua si è migliorato qualcosa? Super 9, sì. Sempre 9, ok, allora lascio così. Comunque non riceveva prima perché mi serve di la doccia, perché c'era il filo staccato in punta, io l'ho risaldato, gli ho messo quel coso, non mi ricordo mai il nome, quello che sta di con l'accendino, l'auto di Giuseppe si chiama. Vabbè, ma ce l'hai bene. Oh Giuseppe, allora, intanto passa tranquillamente perché quello della TV è 75 ohm ed è più grosso, quello che usi tu è 50 ohm e quindi è più fine, quindi passa sicuramente senza problemi. Poi ti volevo fare una domanda, il pluviale dell'acqua è vicino alla tua finestra quando scende? Allora guarda, sarà a 70-80 centimetri dalla mia finestra. E non ci arrivo, se no lavoro me l'avrei fatto dalla finestra, Ocla. Io l'ho fatto dalla finestra e ti dico io come ci devi arrivare, siccome è PVC, ok, stai attento a quello che ti sto dicendo. Leghi una spatola, non molto grande però, di quelle piccole, giusto per fare una finestrella quadrata, ok, piccolina. Oppure addirittura ci puoi legare, cosa ti posso dire, un tondino che però devi scaldare. Io ho fatto così per fare la finestrella, la Toscana l'ho usata dopo che l'avevo già fatto per stuccare, per siliconare, ok? Io ho attaccato la spatola, però l'ho fatto grande il tubo, perché dentro c'è ho entrato un corrugato da non so da quanto è, e i fili, i cavi che io ne ho otto, non ne ho uno come te, ne ho otto, sono attaccati al corrugato ed entrano nella finestra, quindi se tu vedi solo questo pezzo di corrugato, cavi non ne vedi. dicendo, io ho attaccato una spatolina alla punta di un bastone della scopa, le metti due fascette al fornello, scaldi bene la spatolina, la scaldi, deve essere rossa, ok? Poi vai sul tubo in PVC, gliela appoggi quattro volte e ti fa il quadratino. Ma infatti, questa è anche un'ottima soluzione. E buona può essere anche l'altra, Claudio, in quanto, ti spiego, la scatola dove scende il cavo della TV rimane nel salone, e il salone mi confina proprio con lo studio che ho io, quindi io cosa faccio? Se riesco a far passare questo benedetto cavo, devo fare solo un forellino da 6 in basso vicino al battiscopa, dietro il mobile che ho nel salone, e me lo porto qui nello studio. Devi cercare, come ti ho detto, a passare passa perché è più fine, devi legarlo bene con l'altro isolante bello teso, non devi farle praticamente nessun nodo, le appoggi uno a fianco all'altro e li nastri bene, in modo che quando tiri non si stacchino, ok? E lo tiri su, in caso contrario quello non va bene, la soluzione che ti ho detto io è 5 minuti, io per fare quel lavoro ci ho messo 5 minuti, poi dal momento in cui c'era l'autoscala disponibile qua che stavano facendo dei lavori, ne ho approfittato, ho preso la pistola di silicone, ho tutto siliconato il foro, perché il mio è largo, però è molto largo, capite, molto grande, e il problema è risolto, ce l'ho anni, non è mai successo niente, i cavi entrano dentro il pluviale, e ti dico che ultimamente ne ho tirato su uno ed era perfetto, perché non prendono sole e d'inverno si bagnano, ma chiaramente i cavi si bagnano, però i miei sono cavi buoni, non sono cavi Regi 58, sono cavi buoni, ok? Quindi quella è una soluzione, una o l'altra, come ti ha detto Massimiliano. Vai Massimiliano. Sto usando l'MB4 adesso, sono collegato al mio baracchino, come va? Bene o male? Pari le 93 sembra. Guarda un po' com'è la modulazione? Ma guarda, secondo me è più alta questa rispetto all'M93, boh, Massimiliano. Prova prima uno e poi l'altro. Vabbè, dai, questo è l'MB4. Guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, dammi 20 secondi e attacco l'altro. Ok, mi sa che c'è anche Natalino comunque. Natalino ci sei? Sto guardando troppo qualche micro. Guarda, c'è Pompone che ha provato l'MB4, adesso sta provando l'M93, così te la senti tu direttamente, no? Allora, questo è l'M93, che differenza trovi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda un po'. Questo è meglio del più 4. Meglio? Ok, allora giudicato. Io ci ho agganciato l'MB4 nuovo che avevo in scatola. Antonio? Sì? Ma qual è quello marroncino questo? Ma il microfono è baracchino. Sì, il microfono. No, è quello grigio con lo slider giallo, già lo conosci, della ZG, l'M93. Sì, cappa, già è lui. Aspetta, Natalici, sì. Già ci sono. Cosa dici tu? Ascolta Pompone, con l'M93 e l'MB4. L'ho già ascoltato, cosa vuoi che dica? Attaccherò l'M93. E cosa vuoi che dica? Cappa, anda bene. Sì, comunque su quella radio secondo me l'M93 è superiore al più 4. Poi magari per comodità uno usa il microfono a tavolo, però. Se non lo aggiusta Fabrizio non è un microfono a tavolo. Perché dice che c'ha qualcosa quel microfono, mi pare strano. Pompo, non ne hai tu da vendere microfoni da tavolo? È quello che ho io, nuovo, è scatolato e tutto, il problema è che io l'ho pagato 60 euro. Il discorso è quello. Meno di 50 me lo posso dare? Sì, Natali, guarda, se faccio a palluda mia, c'è la nuova cosa, 50 euro, ho sentito. Già lo voglio, non c'è problema. Così, se quell'altro non si può aggiustare, uso quello. Credo che sono un casino, vi ha fatto Simona, qui mi si è abbattuto un bacone, compreso a me. 5 minuti di quelli già dentro fa poco. Comunque è una cazzata collegare il microfono in questo palacchino qua. Tutto un lato devi usare Atari. Hai capito? Tutto è solo i punti da un lato dello spinotto a 8. E basta. E funziona. No problem. E allora mia, lo so cosa faccio, gira, vengo e mi piglio e me lo sto pigliando il microfono. E così mi piglio anche le MP più 4. Se vuoi tu, io sono qua a casa. Ti metto il pantalone e ti aspetto. Quando sono sotto ti faccio una telefonata e scenditelo pure. Vabbè, d'accordo, dai. Adesso mi vesto e vengo, là, perché c'ho la macchina un po' lontana, devo andare a piedi a pigliarla. D'accordo. Oh Giuse, dimmi Massimiliano. Tornando al discorso, no, di quello, prima si può provare secondo me a passarti il cavo dove c'hai la scatola, se non usi quel cavo TV. No, no, quello non lo uso proprio. E allora lì non so cosa fare, si sbuccia bene il polo caldo di tutti e due i cavi, si fa un bel nodo, lì si stringe bene, poi con le due calche, poi si inaltra bene, in modo che non si molla, si mette un po' di quello, un po' di quel detersivo per i piatti, qualcosa, e uno va sul tetto, uno va dentro casa aiutandolo e fa sfilando uno e mette sfilando l'altro. Secondo me ti conviene prima provare lì, prima di fare buchi, pluviale, cose del genere, perché se lo passi lì è meglio, secondo me. E infatti, adesso devo trovare, ti ripeto, il tempo, Massimiliano, per vedere qual è il mio, andare su, uno tira e uno qui, a vedere se il cavo si muove, e io so qual è la mia canaletta, hai capito? Prima che ne tiri sulla televisione di qualcuno. Ma infatti, prima fai quella prova. Oh Giuseppe, fai quella prova, poi se vedi che il cavo, prima fai la prova di tirare quello TV, se vedi che non viene, non puoi farci neanche tanto, non riesci a tirarlo. Oh Giuseppe, dimmi. Ho detto, ma dove abiti tu? Per capirci, dove c'erano quelle antenne da radiomatore oppure sì dall'altra parte? Ce l'ho quasi... No, dall'altra parte del radiamatore. Io sono proprio di fronte alla rotatoria della WTUD, quella per andare a Cosomi, a San Camillo. Quindi non sei in quelle scendendo dove abitavo, più o meno capito. Fratto del macello, per capirci, perché non abita più lì, pensavo che l'avessi comprata tu. No, Cla, io da casa la vedo quell'antenna, se ne è piazzata veramente bene. Lo so, e quel lavoro me l'ha fatto lui con Fabrizio, mi ha fatto tutto lui qua, soprattutto i collegamenti del commutatore elettronico, che sono un sacco di fili a salire, perché c'è l'alimentazione, capite? Sono fini. Vabbè, tu vedi così come ti ha detto Massimiliano, la prima cosa che fai è tirare su quel cavo, se tira è ideale, fai così. Se nel caso hai problemi, se ci sono problemi, allora l'opzione è quella che ho fatto io. Io purtroppo quando ero al nono piano non avevo problemi, da nono piano alla mia finestra, capito? Adesso sono al secondo e quindi per non farli scendere in facciata ho concordato con l'amministratore, ho detto guarda, devo aprire lì e mi frega a me, non è altro frega niente, figurati quanto me la futa a me. Ho aperto tutto, ho messo canale, contro canale e ho fatto tutto quello che devo fare. Positivo. Io ti ripeto, io ho preso tutto, figurati che ho preso anche le staffe da bricole. Va bene, quella è una soluzione, ti ripeto, se va bene che riesci a tirarlo su, come ti ha detto Massimiliano, centrale con centrale, bello legato, calza con calza, poi nastri tutto bene senza fare molto spessore, ok? Senza fare molto spessore e provi a tirare su. Positivo, dai, vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Va bene, vai Massimiliano. facile. Aspetta, forse c'era qualcuno che vuole, c'è qualcuno che vuole entrare. Forse ho visto male, no. Sì, sì, Giuseppe, ma guarda, non ti mettere problemi, piazza l'antenna e lascia tutte queste chiacchiere che ci sono in giro, fai bim bum bam. Se tu stai ascoltando uno all'altro non fai nulla. Ma infatti io avevo mollato un po' la presa perché troppo caos, no, assolutamente. Adesso vediamo se poi Luca me la dà una mano, perché lui ha anche la scala per arrivare alla porticina che ho qui su all'ultimo piano. E vedere un po', uno tira e uno contro, perché se passa lì, guarda, il più è fatto. Io sono una parola sola, io non ne ho mille, una sola. Non ti ho capito, lui, hai parlato troppo veloce. Ho detto che io di parola ne ho una solo. Positivo, va bene, tu figurati, su quello non avevo dubbi. Infatti, come stavo dicendo a Massimiliano, con calma, quando il tempo è più bello, quando ci possiamo muovere un attimino più liberamente, facciamo tutto con calma. L'unica cosa, sai che cos'è? Io l'avvitatore, ma riusciremo a fare quei buchi per quei tasselli, Lu? Se un avvitatore buono già ce la fai. Ehi, avvitatore di sì, per fare un paio di... No, la batteria è buona, soltanto che non ha percussione. Sono rientrato. Dove devi fonare però, sul cemento? Non lo so, guarda, sicuramente le staffe le metto dove c'è la casupola per uscire sul tetto. Oppure la mia antenna è attaccata al comignolo dove c'è l'uscita per la stufa pellet. Tu lo sai cosa fai invece, Giuseppe? Tu molli leggermente l'antenna TV tua, la bassi appena appena e la boomerang la metti sopra il palo, così non fai né buchi né strafe né nulla. Perché mi fa buchi, Giuseppe? Ha ragione Massimiliano. E non regge il palo dell'antenna? Si pesa mezzo chilo di antenna. No, oddio che la regge, vai, fai come ti ha detto Massimiliano, la baci di 10 centimetri, il tanto di 15 centimetri, il tanto di mettere i cavallotti, la metti lì, cosa stai a forare? Hai già tutto pronto, una volta che sale il cavo è tutto pronto, 10 minuti e hai tutto finito. Sì, anche perché, Claudio, una volta che sei su è tutto in piano, mi stai camminando come che stai camminando dentro casa, non hai nessuno scalino sul tetto, è in piano. Ma c'ho ragione, cosa stai lì a bucare, a fa buchi, contro buchi? Metti lì, abbassa l'antenna della TV di qualche coso, lì 10, 15 centimetri, 20 centimetri. Innetti i due cavallotti che tanto sono attaccati, fascetti il cavo a salire, le fai un ciocchettino girato per l'acqua, poi attacchi il PL e la boomerang, a posto, sei andato così. Perché ho preso anche un rotolo di quelle autosaldante. Cos'è di vulcanizzare? Cosa? Danno una vulcanizzata nel coso lì, nello stilo centrale, basta, il resto non devi toccare niente di quell'antenna. Gappa. Ah dai, allora una volta che sono su si prova a muovere il palo della mia antenna e se va bene si mette lì. Scusa, ma quanto è alto il palo della tua antenna? 2 metri? Penso di sì. Cosa vuoi che possa flettere, cosa vuoi che possa fare il vento ad un palo di 2 metri? No, può mai fa niente. Brutto essere a un palo di 4, 5, 6 metri, allora, insomma, è diverso, ma un palo di 2 metri non fa niente. Fai come ti ha detto Massimiliano, che lì in un'ora hai fatto tutto. Se riesci a tirare sul cavo legato a quello dell'antenna, hai fatto 13. Infatti farò così, dai. Poi una volta su si prova a muovere il palo, perché se va bene allora non sto lì a sfasciarmi la testa. Quelle staffe me le conservo, già servono sempre e non c'è problema. E posso prima. Massimiliano, tu non l'hai fatto un lavoro del genere, mi sembra. Sì, l'ho fatto Gavino te da poco. Quella gran plica ha piazzato Gavino, ha abbassato l'antenna TV del Lucia del palo, no? Con la sua antenna, l'ha abbassata di 50 cm l'antenna e in punta al palo ci ha piazzato la gran plica, quella grande. Si è fatto tutta la giura, mi sono fatto 50 metri di cavo, burro, non è che va già, capito? Va bene, forse è entrato Franco, io vai Fra. Ciao, dai, buonasera, ciao Claudio e ciao anche alla Franco. Non lo proprio molto bene, un po' bassino qua sta arrivando. Ok, vai Claudio. Tu sei ben disordo, ma invece in campagna. Ciao. 9:10 sì, radio 5 fortissima. Va bene, avanti Luca, ci sei? Sì, poi magari sta facendo cosa. A te ti conviene, se hai la possibilità, anche questi giorni così, di salire su a vedere. Prima dai un'occhiata, vedi un po' se si può fare questo lavoro, abbassare leggermente l'antenna, tanto lì cosa. Cioè che cabuma la canta è alta, 3 metri mi pare, ma è un'antenna leggerissima, capito? E che poi deve stare uno su e uno giù con il rosmetro, tararla bene, la devi orientare sicuramente con il radialino, credo, verso il portatore, così è qua. Sì, verso la Ginara, a nord la mette, a nord bisogna puntare le antenne, in modo che il riflesso riceve a tutte le parti. Va benissimo. Allora, te la tari, Giuseppe, uno sul tetto, uno dentro casa, quando è bella tarata, la porti su, abbullone tutto, Denise Varene, ma lì se passa quel cavo io penso che in un'ora fai tutto. E non stai lì a bucare, pluviale, fare, girare, acqua contro acqua, capito? Tutto lì. Franco, tu dove ce l'hai puntato il radiale? Alla punta di Sassari. Quindi verso la Ginara, come dice Claudio, no? Ah, boh, non lo so, no. La Ginara è tutta l'altra parte. Io l'ho puntato proprio Sassari lì. Vabbè, lì è nord. No, no. Ma dove sei tu? Dove sei tu, Fra? Io sono in campagna, saluto. Dove, da Giuditto? Giù più sei in campagna, dove? Che zona? Tu dico io dove sei. Zona di carica. Quindi zona di carica. Allora, tu da qua, da dove sono io, zona di carica, sei a 300 gradi. Quindi sei già a nord-ovest. A nord-ovest. Mentre... tu sei quasi a 300 gradi, 280 gradi a nord-ovest, da casa mia, guardando il controbox del mio rotore, ok? Quindi, mentre invece Giuseppe, tanto mi state ascoltando, per il controbox ce l'ho spostato, Giuseppe, da casa mia tu sei leggermente a nord-est 50 gradi. 50 gradi a nord-est, sì, tu sei a nord-est, quindi da lì tu praticamente sei nord e nord-est, dai, va bene così l'antenna. Secondo me lui il radialino lo punta verso, diciamo, il mare, giù, là, verso la Budi-Budi, ecco, per intenderci. E si conferma. E così va bene, però Giuseppe ti conviene, uno su e uno giù, taratta, si guarda le stazionarie, si fanno un giro un po' di canali, quando trovi la cordatura giusta, boh, blocchi tutto e si è arrivato. E si conferma. Vabbè. Cettina, così ti blocchi bene il cavo, su, ordinato, e quello se passa lì dentro, un lavoro fatto bene, ordinato. Un domani, Giuseppe, un domani, non ti piace più che s'antenna, c'hai già il cavo, capito? Ti vuoi mettere un'antenna un pochino più performante, ma se esci bene, guarda Franco, cazzo, da dove, cazzo, come spara qua meglio va l'offre. Tu lo senti a Franco, Giuseppe? Bene, l'importante è che riuscire a parlare, poi ti ripeto, questi grossi cosi non li voglio fare, va bene così. Marico, ma tu a cosa, Franco, lo senti? Però lo sento piccolo, piccolo, piccolo. Matteo Gonto, lui è in zona di carica. Ma Giuseppe, devi capire anche che c'è un'antenna dentro casa tu. Matteo Gonto, tu adesso avendo avuto quella lì sul tetto. Ma tu ti rendi conto, Giuseppe, che con l'antenna dentro casa mi sta arrivando quasi 9 qua a Sassari. Io non sono vicino a te, sono abbastanza lontano, sei più vicino a Massimiliano tu, stai arrivando a 8 con picchi quasi a 9, con l'antenna dentro casa, immaginati tu con l'antenna fuori come arrivi, io lo vedo al chilometro, quindi non ho problemi. Beh, certo, ma penso che vada bene, Ocla, ti ripeto, se riesco a sentire qualcuno in più con quell'antenna, a me va bene, non ho queste grosse pretese come magari le poteva avere nell'altra casa con la Mantova, però va bene, dai. Va ormai fai benissimo. L'importante è giusto, ti ripeto, un colpo di mano per almeno l'apparatura, vedere un po' di tirare su il cavo, poi per il resto piano piano già mi arrangio. Non c'è problema, te l'ho detto. Poi se viene Luca aiutarti è un maestro, non ti preoccupare, non ce n'è problema. Se poi bisogna essere in tre, siamo in tre, anche in quattro, non ti preoccupare. Tu, come ti ha detto Massimiliano, organizza tutto pronto, appena sei pronto un fischio e si fa lavoro. E certo, intanto io ho preso quasi, deve arrivare solo l'antenna, per il resto tutto. E allora fottidini, appena arriva l'antenna fai un fischio e si fa. Io non ho nessun problema a venire a darti una mano qui. Vai Massimiliano. Sì, positivo. Io vabbè, anch'io se... Ma domanda che non entra nulla, non ha un'antenna, ma da lunedì ci possiamo spostare senza autocertificazione o ci sono ancora problemi? Allora, ti puoi spostare col nucleo familiare, però ci vuole sempre l'autocertificazione. Cioè, un esempio, io esco dal lavoro, devo andare a prendermi un microfono a casa di Claudio, il Novibus andà. A casa di amici no, però tu non sei così stupido da dire che stai andando a casa del tuo amico, no? Vabbè, comunque non ci possiamo ancora spostare liberamente, va. Giuseppe, se guardi ti ho mandato un piccolo video come mi arrivi qua a me. Ah, positivo, ti ringrazio. Grazie Massimiliano. Andrà bene, va. No, io pensavo invece che da lunedì non c'erano problemi, ognuno si poteva spostare tranquillo, invece non è così. Chi l'ha detto? Massimiliano, e io guarda, credimi, anch'io non è che sia molto, molto favorevole all'apertura, nonostante tutto, perché rendiamoci conto di una cosa, ma io dico questo, se malauguratamente dovessero salire di nuovo i contagi e richiudono, cazzo, allora è la volta che rimaniamo veramente senza lavoro tutti quanti. Vediamo, si può uscire da lunedì, cosa stai dicendo? Si può andare a fare visita a parenti con le dovute cautele, con le mascherine, con tutta l'attrezzatura necessaria, ma si può uscire da lunedì? Sì che si può uscire, col nucleo familiare, dove vai a fare la visita ai parenti, gli amici ancora no. Gli amici mi pare che sia o dal 18 o dal 25, devo controllare bene la circolare che è arrivata. Ce l'ho anch'io, Giuseppe, la circolare per questione di protezione civile, ma qui ce l'ho anch'io. Si può uscire, ma nessuno a me mi impedisce di andare a casa di Massimiliano. A me cosa devo dire? Che Massimiliano è un amico, è mio cugino, è un parente, allora qual è il problema? Io sto venendo a casa tua, sì, un parente, ma non c'entra niente la parentela. L'importante è lo spostamento, dal 18 addirittura non ci vuole più autocertificazione, però è molto importante lo spostamento, con le dovute cautele, nel senso, se non è la mascherina a distanza di sicurezza, non è che vado a casa di Massimiliano, me lo abbraccio e me lo bacio, sto distante, se appunto ho la mascherina è meglio, o se anche lui ha la mascherina è meglio, cioè bisogna fare le cose fatte bene, e vedrai che non succede niente. Sono perfettamente d'accordo, è quello che diceva Massimiliano infatti, perché con la storia dell'apertura io non vorrei che adesso la gente si ritrovi lì, ah siamo di nuovo liberi, facciamo quello che vogliamo, no, perché se decidono di chiudere per la seconda volta è la fine. Ma non può mai esistere una cosa del genere, perché mia figlia lavora nel settore bar, quindi ti ripeto, non può mai succedere, perché le attività commerciali aprono con tanto di decreto, ok, con tanto di autorizzazione per l'apertura, ma con tanto di documentazione e cioè le impongono che le sono controllati, capito? Non si può fare assembramento, non è che uno, Claudio ha aperto il bar, aiuto tutti da Claudio, non funziona così. Si entra due a due se il bar è piccolo, se il bar è grande si entra tre a tre, stando a un metro e mezzo di distanza da uno dall'altro dal bancone. se ci sono i tavolini vanno messi a 2 metri, se ti pizzicano con assemblamento dentro il bar, te lo chiudono, ma lo chiudono a te, non è che lo chiudono a tutti, eh. Beh, è normale, quello sì. Quindi non c'è problema, non c'è problema, assolutamente, te lo dico perché è così, io lunedì sono al lavoro e anziché praticamente perché una parte del cantiere è ancora inagibile, quindi anziché far lavorare 6 persone lavorano 4, ma 2 sono a destra e 2 sono a sinistra, nel senso che sono distanti tutti lavorando, hanno già fatto sopralluogo per potermi dare l'autorizzazione ad aprire, se non fosse così non potevo aprire, dovevo aspettare anch'io sino al 18, invece c'è la possibilità di aprire il 4, quindi lunedì, proprio perché il cantiere è molto grande e 4 persone si dividono in determinati punti dove sono molto distanti, non c'è assemblamento, capito? Ma attenzione, con mascherina, guanti, il lattice sotto e sopra c'hanno i guanti in pelle perché sono tutti saldatori e tubisti. Sì, sono perfettamente d'accordo, forse mi sono spiegato male io poco fa con la chiusura, chiusura nel senso lockdown il secondo è, attenzione, è quello che c'è da temere, non chiusura di un'attività, la chiusura di un bar o la chiusura di un ristorante, attenzione. Chiusura totale di tutto, di nuovo tutto blindato, ecco perché io dico attenzione, massima responsabilità a tutti quanti quando si esce, mascherina e guanti come hai detto giustamente tu, è quello che io sto temendo, perché io sono uscito stamattina per fare delle commissioni, ma voi dovevate vedere che cos'era, via Rosello, piazza Mercato, niente busata in terra, case 5, 6, 8 persone, case tutte attaccate uno con l'altro, ma non è proprio quello da temere, Claudio. Perché stanno mollando i controlli, Giuseppe, stanno mollando, non dovevano mollare, dovevano continuare i controlli come il primo periodo, dal momento in cui c'è stata questa cosa, si può uscire per fare le passeggiatine, sono tutti barivati giù, lo so, anche nel mio quartiere è così, assolutamente, però la cosa grave che può succedere, spero di no, me lo auguro che non sia così, è che adesso c'è un calo della pandemia, perché? Perché arriva il caldo e il virus sembra che col caldo sia meno attaccabile, il problema è dopo che finisce l'estate, quindi parliamo ottobre, novembre, quindi se superiamo questa cosa qui, quindi estate, autunno e inverno, allora può darsi che sia tutto a posto, ma questo è ancora da verificare, perché non è detta l'ultima parola, infatti ci sarà una fase 3 sicuramente, avanti Massimiliano. Massimiliano. Aspetta un attimo. Capito Giuseppe? È lì. Adesso iniziamo la fase 2. Nella fase 2 dobbiamo stare molto attenti a far funzionare la testa, non l'uccello, ok? Poi, se funziona la fase 2 e tutto procede bene, che non ci sono contagi durante il periodo caldo d'estate, va tutto bene, come è il motto che si dice, e riusciamo a superare tutta l'estate con tutti i problemi quasi risolti, sempre con la massima cautela, arrivare a ottobre, novembre senza contagi, senza niente, anche dicembre, io penso che l'80-90% del lavoro sia fatto, però ripeto, bisogna far funzionare la testa, ok? Stanno parlando. C'è qualcuno? Avanti, chi è? Ciao Mariano, puoi sentito, da dove muto? Sono la prima volta che uso l'apparecchio da giù. Da dove parla? Zona? Zona Cappuccino. Va bene, dai. Ma ti ascolto bene. Tu dove? Io zona Capaldella. Sì, è la prima volta che uso questo nell'apparecchio, sono in macchina e volevo vedere se funzionava. Funziona, si sente bene, basta. Capita, mio padre è anche lontano. Ma puoi arrivare anche a Porto Torres e a tre parti, non è che... La macchina secondo che antenna c'è, arrivi a tre parti. Ah, guarda, non ti so rispondere su questo. Tu altro, mi fa dare l'indicazione su come funziona. Che cosa? Questa, io qua ho tre manopole, volume, squelch, RF e... Facilissimo. È facilissimo, dai. La RFI serve per attenuare il segnale, poi c'è il volume, che sai che cos'è, e poi cosa mi ha detto, lo squelch pure, anche lo squelch serve per attenuare il segnale. Non ci vediamo, non c'è più, non ci vediamo. Non c'è più niente. No, non qua, non è più nessuno. Ciao, qua. Io l'ho sentito, visto, ho sentito solo che stava chiamando questo ragazzo. Sono io, sono qua. Io ci sono, però non so se c'è gente che sta parlando. No, a te io ti sento. L'altro non ho capito chi è che sta parlando con Gianni. Chi è? Mi chiamo Mariano, sono Gian Nuovo. Cosa ha detto Gian? Si chiama Mariano ed è nuovo. E dove sta parlando? Per Cappuccini in macchina. Per Cappuccini in macchina. E allora aggiungi latte e cappuccino, perché sennò qua non arrivi. Ah, così è? Sì. Mi stava spiegando come funziona questa parola, perché non lo sto usando. È vero che lo stai usando, vuol dire che lo sai usare. No, penso che è la prima volta che riesco a parlare con qualcuno. Ah, ho capito. Va bene. Qua arrivi basso comunque. Forse sei vicino a dove abita Gianni, non lo so. Se sei Cappuccini. Vuol dire che sei vicino a lui, qua arrivi bassissimo. Vabbè, bando alle ciance, Massimiliano dov'è? Giuseppe, dov'è Massimiliano? Non lo so, Clara, come stavamo parlando noi, poi l'hai rilanciato tu, sicuramente si è spostato. Ma aspetta un attimo, aveva il telefono, l'ha chiamato Daniela. Può essere. E tu già alla fine hai fatto, dormito di sì. Sì, ci dico che fine ho fatto, mi ha toccato il campanello che sta facendo chi può. No. Questo è perché la chiamata non fa TV. Lui dice che vede, che ogni tanto vede delle righe. Io ho detto, quello può essere anche da interferenza perché stava facendo la prova per il nuovo impianto TV. Bisogna vedere se è quello. Vabbè. Accertati, se prima non c'era, adesso c'è. Magazzino, una centralizzata, cazzo, non venuta là, non c'è niente da fare, lì devi andare in alto, tu ma in alto, quindi bisogna aggiungere almeno un altro tubo, bisogna aggiungere, se no tirare, ci saranno due tubi, c'entra niente, radiali, controradiali. Ma se io ve l'ho detto, tirando più su. Tu mi hai detto, no, già va bene così, questa antenna non ne ha bisogno di tubo alto. Quelle sono le caratteristiche, Gianni, e l'avete detto voi, non è che l'ho detto io, quell'antenna la conosco ma non la conosco, voi cosa devi tirare su? Non viene più il tubo, cosa devi tirare? Glielo vuoi lasciare almeno 50 cm in uno, 50 cm nell'altro, un metro lo vuoi lasciare dentro, o cosa vuoi che si sfasci tutto? Un po' di rinforzo ci vuole già dove sono le aggiunture, non è che puoi arrivare sino alla fine, no? Sono tre tubi, uno è attaccato al muro, l'altro sale per quanto può salire, ci sono 50 cm dentro, l'altro è quasi a manetta, li ha tirati lunga e non è che puoi alzare in piccolo, se fosse stato un altro tubo in più allora sì. Allora è venuto per dirvi che l'antenna si stava piegando e che praticamente aveva paura che si troncasse, da te va, non ti preoccupare, è fatta apposta così, e poi dice qualche volta fa anche delle righe in televisione. Non lo so se sia dal baracchino o da che cosa dipende, allora, può darsi che sia dal fatto che stiano facendo le prove tecniche perché stanno mettendo il nuovo impianto. Ma che impianto stanno facendo già? TV? Via, dobbiamo mettere il decoder dopo nuovo, no? Stanno facendo quelle prove, le fanno prima dalla Sardegna, a me a volte mi sparisce proprio tutto le... mi sparisce proprio il coso, il programma. Stanno mettendo il decoder nuovo, cosa vuol dire? Sì, esatto. Con il nuovo sistema TV dobbiamo mettere un nuovo decoder, perché quello che abbiamo non va bene, se no bisogna avere il televisore che praticamente possa andare su quelle, su quegli impianti che stanno facendo. Ah, perché tu non hai il televisore. televisione, non hai lo smart TV tu? Io ho lo smart TV in 4K, quindi non ho problemi di altre cose. Ho capito adesso, non capivo la cosa. Va bene. Già, verificate se poi è da tirare su qualche altro metro, aggiunge un elemento, si aggiunge, però verificate se effettivamente sei tu, fai le prove come hai fatto l'altra volta. Questo chi è? Allora, uno parla da casa tua e tu vai a casa sua. Aspetta che a lunedì che puoi andare, ti metti la mascherina, fai parlare a Marco, schiacciare a Marco la portante e provi se sei tu. Se non sei tu, li devi aprire le luci. Perché ti vedo già giù di morale. Non funziona così, no? Uno poi può dire quello che vuole, io devo verificare. Verificate e poi si vedrà. Se c'è da tirare su, si tira su. Sì, è venuto con la scusa, non sa mai cosa gatto va chi. Però dai, perché su un macco di rubalato. Che praticamente è venuto con la cosa che l'antenna si stava piegando troppo. E te non ti preoccupare, è fatta apposta per quello, non si rompe. È fatta apposta per piegarsi così. E tiene 160 km orari, non preoccupare. No, chi si accusa è giunto. Vabbè, comunque, ti ripeto. Qui è tuo vivere, tu controlla. Da lunedì tu ti puoi muovere, ti metti la mascherina, fai parlare a Marco a casa tua e tu vai a verificare se effettivamente è come dice lui. Va bene, Franco si è allontanato, riprendi Giuseppe. Ehi, ascolta, Gianni, ma se l'antenna è centralizzata dovrebbe dar fastidio anche alla tua di televisione, o sbaglio? Certo, a me non mi dà fastidio di nulla. E allora, se hai fatto già le prove, scusa, che problema c'è? Non è detto Giuseppe, può anche non dare fastidio a te, dare fastidio agli altri. Dipende sempre da che TV hai, da che impianto hai interno e così via. Può essere qualche partitore che prende mondezza e tante cose ci sono. Cazzarola. Se no è così, però centralizzato è così, centralizzato è così purtroppo, perché è un impianto appunto che è a derivazioni, appartamento per appartamento, dipende in quell'appartamento cosa c'è all'interno, capito? Cioè Gianni ha tutto per dire a norma, quello magari non c'è niente a norma, né televisione, magari c'è un decoder esterno, cioè bisogna verificare le cose. Oh Gianni, ma questo qua è del tuo palazzo, così è? Sì, è quello che abita in Fosellato. Ma quello che ha comprato la casa di quei rompicoglioni? No, quello scemo, lo scemo del palazzo. Ah, grazie. Ho ripreso io, ragazzi. Andiamo più palle, avanti i massi. Già, prova magari a entrare con un pochino meno watt e prova a metterci una radio omologata, cioè con un più basso di watt, no? Ma secondo me non è l'antenna. Ma io sto uscendo con 5 watt adesso, con 5. Sono col garage, però le ho abbassate il watt al massimo. Ma secondo me non è la radio. Già, non è la radio, vai tranquillo. Si può succedere una volta che uno ha la televisione disturbata, però lo sappiamo benissimo, no? Come c'è un'antenna di baracchino, subito pensano a quello. Sì, lo so. Ma infatti che da qui ti rompono le balle sempre. Ieri te stavo riposando, adesso mi svegliato, c'è una gattata. Tu non stavi neanche chiacchierando? Ah? Tu non stavi parlando quando lui ti ha suonato? No, era addormentato. Sentito il campanello, sono andato a aprire e c'era lì davanti alla porta. Ho detto, dimmi. E c'era l'antenna tua che sta ondulando di brutto. Ho detto, vabbè, è fatta apposta per quello, non ti preoccupare. Ah, poi c'è qualche volta, vedo anche delle righe nel televisore, ma forse non dipende proprio da me. C'è l'antenna nuova, non è possibile che sia... Ah, non è così. No, non è così, c'è sbagliato. E tu dovevi dire, adesso se ti ha fatto il problema la televisione, io ero curicato, così dovevi dire, non lo stavo parlando alle radio. Staccate lineari, buonasera. Prego. Stiamo giù, ciao, c'è 3 watt. Ehi, abbetti. Ehi, dove tu vieni adesso? Cosa gli sa fare mai mandato? Non apro intanto, perché c'è il chigno. Ciao, Clara, no, è una Clara Caffè, devi comprare. fantasia di cose, però è una sorta di, come si dice, ti chiedono se ti sei trovato bene, se ti piace il caffè, cosa con l'altro, una cagata. Vabbè, allora la mandata io l'ho girato a un po' di persona, poi mi sembra una volta anche Massimiliano. Sì, ma c'è il chigno, io non ne apro. Certamente Massimiliano l'altra volta, stanno dando non so che cosa, io invece le apro, è vero, un mangaglio che toccava a terra. No, fidati. Vabbè, avanti, Franco, rientratoci. No, riprendi tu Massimiliano, ciao ti comunque, dai. Ciao, stai sereno, verifica e poi dai le risposte. Prima si verifica e poi ci dà la risposta, sono io o non sono io? Prego. Avanti. Io vi stavo ascoltando, ciao Claudio, ciao Tino, ciao Massimo, ciao Gianni. Qualche informazione già te la posso dare a riguardo al disturbo? Oh, un attimino che mi stanno chiamando a me, ci sentiamo dopo. Dimmi Roberto. Allora, ciao Roberto, ciao Claudio, ciao. Allora, ai signori che ti dicono queste cose, gli spieghi bene che digitale non è analogico. Le righine, se fa le righine si facevano nei vecchi televisori digitali analogici. Nel digitale, se tu gli crei disturbo, si ferma l'immagine, non ne fa nessuna righina, oppure scompare il video quando il disturbo è forte. Spiegali quello, c'è un computer che deve scegliere tutti i segnali, tutte le cose, le informazioni e dopodiché le riproduce. Se tu gli dai un disturbo, o scompare lo schermo o si blocca l'immagine, righe non possono succedere. Spiegaglielo bene, se c'è il disturbo sono altre cose, magari in quel momento l'immagine, la televisione o qualunque altra cosa ha creato problemi, la trasmissione magari della televisione, non di te. Spiegaglielo bene bene che è un segnale in digitale, non è analogico come potevi fare prima che potevi disturbare. C'è un sintonizzatore digitale, elabora le informazioni che sono 5 parametri delle informazioni digitali, dopodiché le decodifica e le ritrasmette. Se tu lo disturbi, scompare lo schermo oppure ti blocca l'immagine, ti dà quadrettature, mai righe. Spiegaglielo bene al signore. Infatti, non ci avevo pensato, Robert, non ci avevo pensato che lui è venuto con la storia che dice che si stava piegando troppo l'antenna, ha detto l'antenna è fatta apposta per fare quel lavoro lì. Non c'è problema per quello. E poi c'è un altro problema che ogni tanto mi crea delle interferenze, si formano delle righe nel televisore, ho detto qua, io non lo so se con il nuovo sistema stanno bloccando ogni tanto perché stanno facendo le prove eccetera, questo non te lo so dire, però questa antenna è nuova, come fa a disturbare? Può essere strano. Ecco. Entrato il Brecco. Gianni, facciamo entrare subito il Brecco. Tu gli dovevi dire anche una cosa a quel signore. A parte il fatto che l'antenna era piegata perché avevo preso un tonno di 10 kg e lei me l'ha fatto anche scappare. Scusate, mi devo lontanare, vai, c'è un po', Non sto uscendo. Sì che stai uscendo, ma il break forse l'hanno sovrammodulato, ma avanti il break. Natalino Alfa 1, guarda, meglio va la radio. Un po' meglio Natalino, un po' più forte, ma è sempre basso. Sì, perché questo non è modificato, è nuovo di pacca. Ok, dai, un po' meglio, un po' più presente di prima, però almeno è pulita, dai. Ok, vai, Gianni, scusa Giuseppe, non ti ho salutato. Tranquillo Robert, non c'è problema. Natalino, è un microfono cuocomane quello. È un microfono cuocomane. Aspetta, prova a avvicinarmela a vedere, 1, 2, 3, qua. Vai Robè. Ehi, ha capito già, non ti preoccupare. Sono fesserie che ti dicono la gente, anche se c'è il baracchino spento, ti dicono che sei tu, appena vedono un disturbo, un'antenna, piazzano l'antenna, amico, quella è l'antenna, come stai dicendo te stesso, che alle 3 stanno facendo delle prove per il T2, il nuovo sistema del digitale di internet. Non c'entra niente perché utilizzano frequenze un po' più ampie e basta, è solo quello. Ma disturbi non ne può creare assolutamente perché hanno una banda un pochettino più estesa e basta. E le cose di vecchia generazione non riescono ad arrivarci a frequenze così alte. Chi c'ha, diciamo, da 2017 in poi, per legge deve avere già quella banda di frequenza estesa. Se no ti devi mettere un decoder esterno se vuoi ricevere altri canali. Ehi, ma quando non sanno cosa fare, rompono i coglioni agli altri, scusando la frase, stavo dormendo, che mi ha svegliato per dirmi questa cosa. Infatti glielo ho anche detto, stavo riposato e mi ha disturbato con questa pesceria. Ehi, vabbè, ciao, che se ne è andato. Allora, io te lo dico Gianni, perché queste cose le ho avute quando avevo l'altra radio, però parliamo 8800 etto. Basta la vera che cosa? Non si vede qua, cosa dentro io? Se sono spento, cosa cavolo? Sono venuto l'esco posto sotto l'antenna, ha detto attacchi, provato, lì tutto pulito, seconda armonica, attenuata ai 70 dB, chiunque dice qualcosa sta dicendo fesserie, se invece fermare la cosa. Il problema è che molti hanno dei cavi vecchi, e qui sono tutti, la guaina esterna è tutta aperta, mi è capitato anche a me, perdi un po' di segnale.